Ave Maria, ragazzi e ragazze carissimi, e ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Un saluto da parte di Don Leonardo Maria Pompei, e pronti ad iniziare una nuova puntata insieme. Oggi, se Dio ci aiuta, sicuramente termineremo il terzo comandamento e così la prima sezione dei comandamenti riguardanti la cosiddetta prima tavola, quindi i doveri dell'uomo verso Dio, con una piccola postilla con cui oggi concluderemo e qui forse riusciremo anche a introdurre qualcosa sul quarto comandamento. La volta scorsa abbiamo continuato a parlare, se ricorderete, dell'eccellenza e della grandezza della messa, della Santa Messa, anche in relazione ai fini per cui la Santa Messa si offre, quindi la possibilità di applicare il frutto del sacrificio della Santa Messa, di questo gesto infinito compiuto una volta per sempre da nostro Signore, ma ripresentato in maniera reale e sacramentale, e comunque in forma limitata dal gesto liturgico sacramentale della Santa Messa, in cui il sacerdote può disporre a sua libera scelta, oppure richiesto da un fedele, del frutto di questo immenso atto, per il bene e per la salvezza di anime vive, oppure per suffragare le anime defunte. Vi ricordo anche che abbiamo poi concluso ancora sottolineando alcuni lati, insomma, anche aiutandoci con la testimonianza di Padre Pio di Pietrelcina, che evidenziano la grandezza di questo sublime regalo di nostro Signore, che appunto il sacrificio eucaristico, questa invenzione dell'amore, dice qualche santo, con cui ci ha lasciato in consegna perenne, come diciamo nella Santa Messa stessa, la nuova ed eterna alleanza che viene ogni volta celebrata e vissuta in questo grande atto sacramentale. Scusate ragazzi, ma finita l'influenza, adesso comincia l'allergia, quindi purtroppo siamo sempre un pochino inguaiati. Allora, vi dicevo, mi riallaccerei a quello che abbiamo detto nel nostro primo colloquio su questo argomento per concludere oggi, perché oltre alla santificazione, della festa attraverso la partecipazione obbligatoria e dovuta all'atto di culto per antonomasia, che è appunto la Santa Messa, il Catechismo del 1992 usa un'espressione, un po' più vaga rispetto al catechismo di San Pio X, però parla del dovere del cristiano di astenersi, usa proprio questa formula, da lavori o attività che impediscano il culto di Dio. Ecco, mentre penso che forse qualcuno ricorderà la dottrina tradizionale ribadita sia nel catechismo di San Pio X, credo anche nel codice del 1917, ma non ci metterei la mano sul fuoco. E codice di diritto canonico, ovviamente, che proibiva i lavori manuali o servili. Ecco, di fatto, comunque, la sostanza è analoga. Ecco, ricordando un pochettino quello che ci siamo detti nella prima puntata, ecco, prima di andare a puntualizzare, perché qui oggi in molti si preoccupano, dice, ma lavoro la domenica, ma tutti i negozi sono aperti, e le fabbriche vanno a ciclo continuo, allora che facciamo? Si deve fare, non si deve fare, si può fare, non si può fare, si fa peccato, non si fa peccato. Adesso, prima di scendere un pochino in particolare e quindi verificare nel dettaglio, ecco, quali sono i comportamenti da cui sarebbe bene astenersi, cerchiamo di nuovo di ricomprenderne il senso. Ecco, che senso che possiamo prendere dalle parole che Gesù usa nei Vangeli, che abbiamo già in parte affrontato, proprio quando, a differenza di oggi, contro i farisei combatteva contro un'interpretazione ipertrofica, eccessiva del sabato e del divieto, quindi del lavoro del sabato, che avevano i farisei, cioè proprio in maniera, come dire, ossessiva, no? Dicendo: Dio ha fatto il sabato per l'uomo. Intendiamo noi oggi chiaramente il giorno del Signore, che è diventata la domenica, e non l'uomo per il sabato, quindi non il contrario. Quindi ora non dobbiamo noi cominciare a fare un rigido codice cavilloso e centellinato. Ecco, lo sapete che adesso non mi ricordo i numeri, vi ho fatto alcuni esempi, insomma, di di comportamenti che fanno quasi ridere oggi, no? Ci fanno sorridere, anche se comunque sono da rispettare in quanto espressione di una religiosità sia pur diversa dalla nostra. Però non si possono fare più di 200 metri, adesso non si possono accendere fuochi, bisogna cucinare il giorno prima. Tutta questa serie di cose, ecco, che San Paolo ben sintetizza nelle sue lettere quando parla di schiavitù della legge, quindi veramente una serie minuta e cavillosa di precetti che se tu ne sgarri uno piccolo piccolo fai peccato grave, insomma, no? Oggi c'è un pochino l'eccesso contrario, cioè nel senso che si tende ad appiattire il senso sacro del giorno del Signore e anche la dimensione del giorno del Signore come giorno dell'uomo, quindi non soltanto giorno del culto, ma anche giorno, vi ricordo, le prime nostre conversazioni, in cui ci si riposa dalla fatica, cioè si in qualche modo pregusta il riposo eterno. E quindi si evita di stressarsi con attività eccessivamente penose o laboriose, e in ogni caso si sta alla larga per quanto possibile, adesso lo vedremo, salvo che ci siano gravi motivazioni oppure obblighi indipendenti dalla propria volontà, dalle attività che abbiano come fine il profitto economico, cioè per una volta alla settimana, soprattutto per quando c'è il giorno del Signore, il Signore vorrebbe che non stessimo a pensare ai soldi, a farli i soldi. Casomai se abbiamo qualche lira li usiamo per qualche come dire, passatempo e divertimento lecito, non per farli. Cioè, l'uomo non è una macchina da produzione, non è una macchina da soldi, non può stare tutti i giorni, tutte le ore a stare a pensare a far soldi, a far soldi, a far soldi, a far profitto, a far profitto, a far profitto e a spendere e a spandere. Questo è il senso del riposo settimanale. Evidentemente, cioè questo aspetto deve essere in qualche modo compreso, ecco, nella sua positività. Quindi, vedere la domenica, così come succede oggi, negozi aperti, vetrine allestite, centri commerciali illuminati e iperaffollati, è cosa che stride con il carattere sacro del giorno del Signore, perché queste attività commerciali, proprio in senso stretto, proprio espressione poi tra l'altro del nostro mondo, sono attività per antonomasia feriali, ecco, non sono esattamente attività festive. Non bisogna permettere che questa cosa succeda. Vi faccio subito un esempio. Non so se sapete che qualche mese fa io non ho potuto farlo nelle mie parrocchie perché era un'iniziativa ufficiale che richiedeva insomma l'intervento addirittura di notai o compagnia cantante, però le organizzazioni pubbliche accreditate italiane hanno promosso una giornata di raccolta di firme per chiedere a livello legislativo che si tornasse a chiudere i negozi la domenica. Loro, perché nonostante le sciocchezze che siano state dette, hanno visto, come dicono a Roma, che la spesa non vale l'impresa, cioè che i costi derivanti dagli straordinari e dai lavori extra che comunque ti costano tenere i negozi aperti la domenica non sono compensati, guarda un po', dalle entrate e quindi non sono economicamente convenienti per i centri commerciali. Pensate un po', questa storia, questo qui, ragazzi, quindi basta che andate a leggere gli articoli. Io subito, quando ho visto una cosa del genere, ne volevo collaborare, ma siccome era organizzata, credo, proprio dalla Confcommercio, adesso non vorrei dire una sciocchezza, praticamente richiedeva che ogni persona che metteva la firma fosse identificata da un notaio addirittura, doveva essere presente, e quindi, cioè, capite che stando in una parrocchietta andare a cercare un notaio che fa un lavoro del genere, cioè, diventava abbastanza complicato, anche perché l'ho saputo, diciamo così, il giorno prima, no? Però per dirvi, mi è subito venuto in mente il proverbio di mia nonna che diceva: lavoro un giorno di festa, esce dalla finestra. Quindi il mito di dire ah, ma devo lavorare un giorno di festa perché la gente non c'è niente da fare, quindi va in giro per i negozi e compra, compra, compra, compra. Sì, i negozi sono comunque sì iperaffollati, però i costi, a quanto dicono, non compensano i profitti, cioè, non reggono e quindi chiudono. Quindi vedete come è una bugia una cosa di questo genere. Vedete come il Signore non benedice una cosa di questo genere, perché comunque sia, gli gli uomini, come si dice, l'uomo propone ma Dio risponde, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Voi sapete che c'è stato qualche, stare attenti, questa è un'altra cosa che vi dico, che è stata notata da qualche commentatore, non è cosa del sottoscritto, potrebbe essere una cosa semplicemente casuale, ma non so se vi ricordate il grande uragano, come si chiamava, mi pare Catlina, una cosa del genere, che devastò qualche anno fa, forse non lo ricordate ragazzi, quelli che sono un pochino piccolini, New Orleans, e questo avvenne qualche giorno, qualche settimana dopo la delibera dell'amministrazione di quella città di imporre a tutti quanti i negozi l'apertura in giorno festivo. Qualcuno, ecco, non Don Leonardo, mi ricordo benissimo questa notizia che uscì su qualche periodico, vide un possibile nesso non casuale tra questo, come dire, disastro naturale e quella decisione. Ecco, se voi prendete per esempio le apparizioni di La Salette, le apparizioni di La Salette sono abbastanza poco conosciute, male però, perché La Salette è un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa e quindi essendo un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa dovrebbe essere appunto, oltre che riconosciuta, conosciuta. Pochissimi conoscono come si chiama? Scusate, le apparizioni della Salette, male, e in quella circostanza la Madonna usa proprio delle espressioni, è un linguaggio insomma abbastanza forte, che sembra quasi che non sia a volte, almeno quando noi insomma ci siamo fatti magari una certa idea, a volte sinceramente un po' stramba, di Maria. Però effettivamente usa un'espressione che quasi quasi sembra quasi in qualche modo esserci qualche dubbio che sia veramente la Madonna. Io adesso magari ve la leggo qualche espressione proprio usata dalla Madonna di Nazareth, no? Allora, la Madonna in questa apparizione 19 settembre 1846 fece dei richiami soprattutto per quanto riguarda la violazione del secondo comandamento, così facciamo un ripasso, e del terzo comandamento. Durante questa apparizione la Madonna piangeva dirotto e a questi due poveri pastorelli di 11-14 anni, Massimino e Melania, disse queste parole, ascoltate bene, virgolettate, quindi sono le sue parole pronunciate a nome di Gesù, tra l'altro. Dice: vi ho dato 6 giorni per lavorare, mi sono riservato il settimo e non me lo si vuole concedere. I carrettieri non fanno altro che bestemmiare il nome di mio figlio, queste sono le due cose che appesantiscono il braccio di mio figlio. Capite che appesantire il braccio di mio figlio vuol dire, fuori di metafora, provocare la divina giustizia a mandare dei castighi per questi peccati. Detto proprio, e la Madonna conferma questa cosa qui, eh. Guardate che più avanti, quando scende un pochettino nei particolari, prosegue dicendo: a messa non vanno che alcune donne già anziane, gli altri lavorano di domenica tutta l'estate, vedete? Lavorano di domenica tutta l'estate, sta facendo riferimento al lavoro dei campi, al lavoro dei contadini. E l'inverno, quando non sanno che fare, non vanno alla messa che per bullarsi della religione. E poi addirittura in Quaresima vanno alla macelleria come dei cani. Vedete, questa è la Madonna che parla con questi termini un pochino forti, un pochino crudi, no? Quindi tenete presente che poi tutto il resto delle apparizioni più avanti la Madonna spiega che i raccolti, in particolare fa riferimento alle colture di patate, erano andati a male, erano stati rosi dai vermi, insomma, comunque, perché lavoro di finestra, di lavoro un giorno di festa esce dalla finestra, lavoravano quando non si dovevano. E quel lavoro non era benedetta da Dio. Guardate, se il raccolto va male, continua la madre di Dio, è soltanto per colpa vostra. Ve l'ho fatto vedere l'anno scorso con le patate. Voi non avete fatto caso, anzi, quando ne trovate delle guaste, voi imprecavate, intercalavate il nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e quest'anno Natale non ve ne saranno più. Continua, se si convertiranno, le pietre e le rocce si tramuteranno in mucchi di grano e le patate si troveranno seminate da loro stesse. Su, bambini miei, fate sapere ciò a tutto il mio popolo. Questa è una sintesi di quello appunto che la Madonna dice in questa apparizione. Vedete cos'è un linguaggio abbastanza vivo. Se uno si studia l'apparizione della Saret, la Madonna affronta tre problemi. Ma guardate che in lacrime dirotte, quindi la violazione del secondo comandamento con le bestemmie, la violazione del terzo comandamento in tre forme: mancanza della messa domenicale, lavoro nel giorno festivo, oppure partecipazione completamente, come dire, quasi blasfema alla Santa Messa. Vanno a messa soltanto per burlarsi della religione. Quindi senza nessun interesse e senza nessuna partecipazione. E poi alla fine fa anche riferimento al dovere di pregare almeno una mattina e una sera. Quando chiede ai pastorelli se facevano le preghiere, i pastorelli gli fanno una faccia un po' così per farle capire che non era vero che erano sempre ligi nelle preghiere. La Madonna risponde: no, ragazzi, figli miei, attenti che le preghiere bisogna farle. Vanno fatte tutti i giorni, la mattina e la sera, e vanno fatte bene. E poi continua. Se qualche volta vi dovesse capitare di non avere tempo, questo ve lo giro a voi, ragazzi, da mettere in pratica la lettera, fate almeno il segno della croce, il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ma quando invece avete tempo, pregate di più e fate più preghiere. Ecco, quindi capite, ragazzi, che qui stiamo nel dovere di obbedire a Maria Santissima e al Signore in persona. Ora, indulgere alla mentalità odierna, quindi trasformare la domenica in giorno dello shopping, diventa chiaramente una sorta di provocazione dinanzi alla divina giustizia. Perché questo anzitutto, cioè, se io dedico la domenica, per esempio, a stare tutto il giorno in giro al centro commerciale a fare shopping, è ovvio che l'unico pensiero che dovrebbe animare il cuore in quel giorno, quindi il pensiero di Dio e le cose di Dio, vi ripeto, anche il pensiero della vita del mondo che verrà, della vita ultraterrena, del momento in cui non dovremo più riposare, non dovremo più, non, scusate, magari, non dovremo più lavorare, non dovremo più affannarci in tante cose, diventa praticamente impossibile. Anzi, si legittima questa mentalità nefasta, ecco, liberalista e eccessiva dell'Occidente, che fa del profitto e del guadagno non soltanto la legge suprema, ecco, ma anche la sola ragione a volte dell'esistenza umana. Perché dietro tutte queste cose sta soltanto avidità di guadagnare più denaro. Ora, facciamo subito un pochino di esempi, no? Ci sono ovviamente, questo penso che lo capiamo, no? Ecco, ricordiamo sempre che Dio ci ha liberati, l'espressione di San Paolo, dalla schiavitù della legge, per cui non è che il lavoro la domenica è Satana in persona, sempre, dovunque e comunque. È ovvio che ci sono dei lavori che si capisce subito che sono completamente al di fuori. Un medico la domenica lavora, un sacerdote ovviamente la domenica lavora, non il doppio, il triplo, è occupato nelle cose di Dio. Se uno sta male, non è che ti chiede il permesso alla malattia di venirti il sabato o lunedì, se sta male di domenica. Si lavora di domenica, gli ospedali non possono certamente chiudere la domenica, per cui gli infermieri devono lavorare, i portantini devono lavorare, non lo so, le aziende che fanno, non ne so, i cibi per gli ospedali devono lavorare, d'accordo? Stessa cosa vale, oggi ci sono le fabbriche a ciclo continuo, cioè se una fabbrica non può chiudere, è ovvio che è lecito che abbia una turnazione continuata, che preveda anche, ovviamente, a giro. Per gli operai salva la possibilità comunque di partecipare al giorno festivo che c'è, perché comunque non è che uno lavora 24 ore su 24, ma si lavorano comunque 8 ore, può stare aperto, no? Immaginate se le forze dell'ordine la domenica non lavorassero, quindi magari i ladri lo sanno, non lavorano carabinieri, non lavorano poliziotti, non lavora l'esercito italiano, non lavora l'aviazione, non lavora la marina, ecco, i criminali farebbero il bel e il cattivo tempo, quindi ovviamente noi capiamo queste cose, no? E si tratta, così come dicono i moralisti, anche quelli insomma da seguire, accreditati, se c'è un'attività che ha comunque una certa rilevanza sociale, per esempio, se servizi di ristorazione, bar, o magari forni che rimangono aperti soltanto le prime ore della domenica, specialmente quando poi questi fratelli dicessero che se non si lavorasse facendo questa peculiare forma di lavoro in quel giorno si iscrive il fallimento, si ammette la liceità anche di queste attività. Il lavoro intellettuale non è lavoro manuale e servile, per cui se uno studente una domenica ha bisogno di ripassarsi una cosa, non fa peccato se lo fa, così come se un professionista ha bisogno di occuparsi una piccola parte del tempo di un'attività intellettuale. Quindi ci sono tutti quanti questi distinguo, però qual è il allora dice, che cosa non si deve fare? Non si devono fare quelle attività che non sono strettamente necessarie alle esigenze che si capiscono come dire, normali, umane, oppure del consorzio sociale, e che sono finalizzate soltanto a fare inutilmente dei soldi, oppure che spossano in maniera impressionante, come dire, il fisico della persona. Per esempio, se una donna, lasciamo perdere i soldi, sta tutta la domenica a fare le pulizie di Pasqua dentro casa, non fa cosa buona. Ecco, se vi leggete gli scritti di Padre Pio, sapete che i santi andavano sempre oltre, lui ha sgridato. E la signora Alicia Manelli, si è scritto proprio nel libretto edito da Casa Mariana, questa è la mia famiglia, perché la domenica aveva stirato una camicia. Pensate un po', che sono delle cose che ci sembra. Perché Padre Pio preferiva, specialmente dai suoi figli, che se non si tratta proprio di una cosa proprio assolutamente urgente e indispensabile, evita di farla. Goditi il riposo festivo. Stai con i figli, stai con il Signore, stai con la famiglia. Quindi questo è come dire, il senso profondo e la ratio. Ecco, quindi capite che pensate se una farmacia di turno non stesse aperta la domenica, no? Sarebbe assurda. Ecco. Quei dipendenti, per esempio, dice Don Leonardo, dice, ma io sono un dipendente di un centro commerciale, questi la domenica aprono e mi costringono a lavorare. Se uno è costretto a lavorare in questo senso, evidentemente non fa peccato lui, fa peccato quel commerciante che tiene aperto, certo, a meno che perché oggi ci sono pure le leggi, non ci sia una legge che obbliga il negozio del centro commerciale a stare aperto, in quel caso ha fatto peccato grave chi l'ha approvata quella legge lì o chi l'ha fatta in qualche modo rispettare. Capite che per esserci un peccato ci deve essere sempre un'azione libera e volontaria, quindi che sia da attribuire alla libera scelta e alla volontà del peccatore, altrimenti non c'è in senso stretto, non si può in senso stretto parlare di peccato, penso che questo lo capiamo tutti quanti. Ecco, fermo restando, quindi se uno sta in uno di questi ambiti abbastanza ampi, come vedete, di lavori leciti o necessari, che bisogna comunque adempiere il dovere di partecipare alla sacra liturgia festiva. Ecco, e oggi guardate che veramente chi non ci va a messa, è proprio perché non ci vuole andare, perché abbiamo la messa prefestiva che sapete che in caso di necessità è considerato come valido adempimento del precetto. Ci sono le messe mattutine della domenica a orario presto, ci sono le messe a orario un pochino più lontano, poi ci sono le messe a orario ancora più lontano, poi c'è la messa vespertina. Oggi abbiamo le macchine, quindi se uno sta in un paese o in una città, cioè per esempio qui dalle mie parti ce n'è stata davvero per tutti i gusti, perché ci sono parrocchie che hanno conservato la tradizione di fare la prima messa prestissimo, tipo alle 7, e parrocchie dove addirittura l'ultima messa mattutina a mezzogiorno e un quarto. Ecco, poi c'è tutta quanta la gamma degli intermedi, gli orari delle messe domenicali a chi le 5, chi le 5 e mezza, chi le 6, chi le 6 e mezza, addirittura in qualche posto alle 7, quindi è proprio per chi non ci vuole andare. Quindi, dopo la pausa, che adesso sono quasi le 5, adesso facciamo una piccola pausa, vi racconto subito un episodio che ci hanno raccontato alcuni seminaristi ucraini venuti a un incontro di preti, insomma, che su questo punto magari hanno detto qualcosa che ci lascia un po' da pensare. Ecco, sono le 17 e vi invito un attimo, come sempre, a fare un po' di raccoglimento per recitare insieme un'Ave Maria in onore della Madonna. E così facciamo anche una piccola pausa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendiamo ragazzi e ragazze carissimi, la nostra conversazione. E vi stavo un attimo accennando a quell'esempio. Una volta venne un seminarista qui dalle nostre parti dell'Ucraina o di qualche paese dell'est, adesso non vorrei sbagliare, comunque non ha importanza la recessiva localizzazione. Chiaramente lui chiedeva aiuto anche sia ai sacerdoti sia alle comunità parrocchiali che noi guidiamo per una raccolta proprio di fondi, perché da quelle parti i seminari, a differenza di qua, sono pieni, ma i soldi a disposizione delle persone sono veramente poche. E siccome, questo è bene che lo ricordino anche gli ascoltatori, i seminaristi sono esseri umani che mangiano. Non troppo e non troppo spesso, però intanto mangiano e che si vestono, che comunque si lavano, che hanno comunque le necessità normali di ogni essere umano, ci chiedeva insomma una mano, appunto raccontandoci come dalle loro parti, dopo tanti anni di regime, la fede a Florida, i seminari sono pieni e la partecipazione alle messe domenicali raggiunge livelli di record. E a un certo punto, non so come, è uscito il discorso che invece dalle nostre parti l'affluenza, la messa domenicale è in calo continuo. Sapete che in alcune zone d'Italia è al di sotto addirittura del 10%, in altre arriva appunto del 15%, massimo circa il 18-20%, ma in alcune zone limitate, ecco, diciamo che la media nazionale non supera di molto il 10%. E allora sapete cosa ci ha detto questo ragazzotto? Ci ha detto: è colpa vostra. Siete voi che avete mal abituato i fedeli e quelli non vengono a messa per colpa vostra. Perché facendo 577.000 messe, ecco, per tutti i gusti e per tutte le ore, questi si sono viziati. Dalle parti nostre c'è una messa sola, celebrata alle 10 della mattina. E in una città, magari anche molto grande, chi vuole andare a messa si organizza e va a quella messa. Se non va a quella messa, dato che non ci sono per ora strutture sufficienti e preti sufficienti per fare tutte queste cose qua, a messa non ci va per niente. E le chiese sono piene. Quindi c'è colpa vostra, perché la proliferazione di messe ha ingenerato nei fedeli una sorta di cattiva abitudine e quindi cattivo modo come dire, di relazionarsi con questa cosa, e quindi questi non vanno a messa per colpa nostra. Quello stava dicendo in due parole. Forse tutti i torti non è che ce l'ha. Ecco, forse tutti i torti non è che ce l'ha. Un ultimo aspetto, ecco, per quanto riguarda il giorno del Signore, poi vorrei concludere, ecco, citando un'espressione proprio della Dies Domini, è il fenomeno della cosiddetta cultura del weekend. Che non è anche questo un fenomeno, se non rettamente vissuto, molto positivo. Ora, indubbiamente abbiamo visto che tra i valori riconosciuti anche dall'insegnamento della Chiesa, per quanto riguarda il giorno del Signore, c'è anche la necessaria distinzione della mente e del corpo, che si realizza anche dando una adeguata valorizzazione al tempo libero, prendendosi qualche divertimento lecito. O anche cogliendo l'occasione, non so, per fare qualche viaggio o qualcosa del genere. Ecco, però, a volte la mania o la cultura del weekend, come dire, è vissuta dalle singole persone come modo di nuova come dire, e moderna forma di trasgressione al terzo comandamento, perché diventa semplicemente, come dire, la cultura dell'evasione, cioè io sto indaffarate lavorando fino al venerdì pomeriggio, dopodiché il venerdì pomeriggio mi metto in macchina, non so, me ne vado nella località X o Y, me ne vado nella casa al mare, me ne vado nella casa in montagna e non voglio per sé niente fino a domenica sera o lunedì mattina. Quindi, e devo stare semplicemente a distendermi, a rilassarmi e semplicemente con la mente immersa completamente nel vuoto, a volte passando anche larga parte della domenica in macchina. Ecco. Allora, e che succede? Che in questo modo certamente ci si distende, ci si, come dire, riposa dalle occupazioni e dalle preoccupazioni quotidiane dell'ora degli altri impegni. Ma purtroppo però si evita di pensare anche a Domine Dio. Quindi, con la conseguenza che si affrontano ingenti fatiche per viaggi e spostamenti, anche di lungo corso, quindi ci si riposa, non lo so se e quanto, o entro certi limiti. Io vedo qui dalle mie parti, specialmente d'estate, sapete, io vivo a Latina. Latina si trova tra Roma e alcune località turistiche care ai romani, che sono per esempio Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, eccetera. Ah, se voi, Dio non voglia, vi capita che venite da queste parti il venerdì pomeriggio, io poi tra l'altro mi trovo a Borgo San Michele, quindi è proprio una traversina della famosissima 148 in Mediana. Se voi da maggio in poi andate lì il venerdì pomeriggio, ci rimanete 2 ore. E se Dio non voglia, andate via dal borgo la domenica sera, dalle 5 in poi c'è una fila che da Borgo San Michele arriva quasi fino a Roma, sono 70 km di traffico ultra rallentato. Quindi addio, insomma, di riposo. Cioè, tu dici, ti danno a distende, ti costano per fare un percorso da Roma a Sabaudia. Se non c'è sta traffico, ci vogliono normalmente un'oretta, un quarto, non di più. Ce ne metti 4 ore andà e 4 o 5 a tornare, se tutto va bene. Quindi, capite? Allora, quando questo fatto, io vi parlo anche per l'esperienza della confessione, ci sono state moltissime famiglie, anche con i ragazzi del catechismo, che si spostano, si cosano, è capace che poi, quando i ragazzi vengono al catechismo, ci è stato ammesso domenica scorsa, dice no, cioè perché? È perché siamo andati da nonno, perché siamo andati da nonna, siamo andati a Roma, siamo andati a Frosinone, siamo andati a Veroli, siamo andati a Caserta, siamo andati a Napoli. Quindi chiaramente se tu la domenica mattina ti alzi, prendi la macchina, vai a casa della nonna come dire, a Caserta, stai a pranzo e poi ritorni, a meno che sia andata a messa il sabato sera, cosa che devi fare se c'è in programma una cosa di questo genere, addio la messa domenicale. Ecco, quindi bisogna fare attenzione, nel senso che tutto si può fare, ragazzi e ragazze carissime, purché si diano sempre le debite preferenze. Cioè, Dio viene al primo posto. Quindi, quando io mi metto a organizzare il weekend, la prima cosa che faccio è blindo la messa, questa è la regola, la blindo, e scelgo un momento in cui sicuramente potrò andarci con calma e potendomela sentire tutta dall'inizio alla fine, ed eventualmente anche farmi una bella confessione, che se riesco a farla settimanale, come già detto a suo tempo, è certamente cosa molto buona. Organizzo le cose in modo tale che non mi affatichi, in maniera che arrivo lunedì più stanco di come sono arrivato alla domenica, e poi per il resto starò godendomi i beni che Dio mi ha dato, godendomi la moglie, godendomi i figli, godendomi la natura, godendomi un po' di tempo libero, ecco, chi può, riposandomi se posso, ecco, vivendo veramente questo giorno come un giorno atteso, come giorno bello sotto tutti i punti di vista. Ecco, è davvero, come dire, è davvero. Fa un po' cascare le braccia per terra il fatto che si debbano spendere parole, ecco, per apprezzare la bellezza di un giorno dedicato al riposo e al Signore. Insomma, se non siamo capaci neanche di stare un pochino sereni col Signore, di riposarci santamente un po', questo diventa uno dei tanti assurdi, ecco, estrani paradossi dell'uomo contemporaneo, che tra tante cose che ha disimparato a fare, ha pure disimparato a riposarsi, sta sempre a dire che è stanco e che è stressato, eppure sembra che sia diventato addirittura incapace di riposarsi. Allora, io vorrei concludere questo argomento e poi nell'arco di tempo che ci resta cominciare brevemente a introdurre il quarto comandamento con un'espressione del beato Giovanni Paolo II, che disse queste testuali parole nella sua famosa lettera dedicata alla Domenica Dies Domini. Storicamente, prima ancora che come giorno di riposo, i cristiani vissero il giorno settimanale del Signore risorto soprattutto come giorno di gioia. La domenica, in forza del suo significato di giorno del Signore risorto, le nostre prime conversazioni sul tema, nel quale si celebra l'opera divina della creazione e della nuova creazione, è giorno di gioia a titolo speciale, anzi, giorno propizio, sentite, per educarsi alla gioia. riscoprendone i tratti autentici e le radici profonde. Essa non va infatti confusa con fatui sentimenti di appagamento e di piacere, che inebriano la sensibilità e l'affettività per un momento, lasciando poi il cuore nell'insoddisfazione e magari nell'amarezza. Cristianamente intesa è qualcosa di più duraturo e consolante. Sa resistere perfino, come attestano i santi, a una notte oscura del dolore e, in certo senso, è una virtù da coltivare. Sono molto significative queste parole. Noi dobbiamo imparare l'arte della gioia, perché l'uomo contemporaneo non sa più che cosa inventarsi per trovare nuove forme, nuove fonti di piacere. Ecco, ma stanno tutti quanti tristi e coi musi lunghi. Ecco, questo perché, come giustamente note, ci ho fatto tanti interventi e tante catechesi, gioia non coincide con piacere, affatto. Così come tristezza non coincide necessariamente con dolore. Si può essere gioiosi nella sofferenza e si può essere addirittura gioiosi quando si è circondati da eventi non gradevoli e tristi, perché la gioia deriva semplicemente dall'amicizia con Dio e dalla serenità e dalla coscienza profonda dell'anima che stiamo ubbidendo a Lui e facendo i Suoi voleri. Ecco. Non è un caso che un bellissimo salmo, il Salmo 36, usi questa espressione: cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. E la Madonna, che sapeva bene quello di cui parlava, la regina della gioia, che è chiamata da noi nelle litanie lauretane come fonte della nostra gioia o causa della nostra gioia, sapientemente cantò nel suo Magnificat: il mio spirito esulta, quindi proprio scoppia di gioia, ma esulta in Dio mio Salvatore, l'unico in cui possiamo trovare la pienezza della gioia. Con questo congediamo il lungo capitolo dedicato ai comandamenti su Dio, in particolare il terzo comandamento, introducendo brevemente nei minuti a nostra disposizione ancora, vedo che ce ne abbiamo circa un quarto d'ora, e il discorso sul quarto comandamento. Ora, il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, apre la cosiddetta seconda tavola. Quindi vuol dire che è il primo dei precetti, della serie dei precetti dedicati all'amore del prossimo. Ecco, è molto interessante anzitutto notare che nella sua formulazione originaria, nel libro dell'Esodo, sapete che i 10 comandamenti si trovano al capitolo 20 del libro dell'Esodo, è il primo comandamento a cui è legata una benedizione divina. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Ora, l'oggetto proprio e formale di questo comandamento è costituito ovviamente dai doveri dei figli verso i genitori, ma quindi, partendo da questa base, che è l'oggetto proprio, diciamo che si estende e si allarga ad ogni forma di autorità costituita, quindi serve a relazionare fondamentalmente i doveri dell'uomo verso coloro che sono costituiti nei suoi confronti in rapporto di autorità, per farvi comprendere. Quindi, i professori, i docenti, lo Stato, i governanti, e tutte le forme di autorità legittimamente costituite. E questo comandamento, però, dal canto suo, sottintende, a fianco ai doveri dei sottoposti, diciamo così, queste espressioni oggi, appena uno le usa, appena si sentono, fanno subito saltare sulla sedia qualche uomo eccessivamente intriso di spirito moderno, però tanto in qualche modo superiori e sottoposti, ce li troviamo sempre davanti, eh? Ecco, quindi. Perdonatemi se uso questa espressione, però dobbiamo anche intenderci un po'. Quindi non soltanto i doveri dei sottoposti verso i superiori, ma anche il contrario, i doveri reciproci. Perché se ci sono dei doveri dei sottoposti verso i superiori, ci sono dei doveri dei superiori verso i sottoposti, quindi dei genitori verso i figli, delle autorità dello Stato verso i cittadini, dei sacerdoti verso i fedeli, per esempio, dei vescovi verso i fedeli e dei professori verso gli alunni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi siamo in questo ambito, ambito, come capite, molto molto grande. Ora, quindi, capite come l'ambito di estensione del quarto comandamento è abbastanza grande e abbraccia istituzioni e situazioni la cui, diciamo così, problematica, per così dire, è di strettissima attualità. La famiglia, per esempio. La moralità delle leggi dello Stato, per esempio. L'educazione, soltanto per citarne qualcuna. Ora, trattando quindi di questo argomento, dovremo affrontare alcune di queste tematiche che sono tanto più urgenti quanto più grande sembra farsi la confusione e lo smarrimento su alcuni secolari capisaldi del pensiero e della cultura occidentale. Ecco, ed oggi più che mai, ecco, soprattutto alla luce di ciò che stiamo vedendo, specialmente nella situazione attuale che si sta creando in Italia. Quindi questi capisaldi qualcuno li vorrebbe frettolosamente mettere nel dimenticatoio, d'accordo? O in una sorta di museo delle cere, come istituzioni o mondi e modi di pensare relegabili ad altri tempi, quindi aventi il crisma dell'anacronismo. Però ecco, è tutt'altro che così. Ora tenete presente una cosa, come piccola di nuovo introduzione. Tra i vari segni della balordaggine dei nostri tempi, uno è questo, cioè purtroppo allora, i figli non onorano più i genitori, perché si vedono delle cose che in altri tempi non sarebbero mai stati ammissibili. Ma, e chi lo sa dei due qual è più grave? Ci sono la maggior parte dei genitori che, come aveva previsto Padre Pio, non sono capaci di educare i figli. E io, questa è un'idea mia, penso che molti comportamenti assolutamente inopportuni, per usare un eufemismo, dei figli anche molto piccoli verso i genitori, siano proprio, non solo che conseguenza immediata e diretta dell'incapacità educativa dei genitori. Questo ve lo dico chiaramente, Padre Pio poco prima di morire diceva, e lo diceva tra le lacrime, quindi piangendo, verrà una generazione di genitori incapaci di educare i figli. Non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti. Ecco, io lo so che parlo principalmente ai ragazzi, però vi avverto subito, questo è un tema che mi sta particolarissimamente a cuore. E che anche per radio, oltre che averlo fatto tante volte in diretta, dirò tante cose, ecco. Scendendo anche in tanti particolari, ecco, perché veramente si vedono oggi, si vedono e si sentono, insomma, alcune cose che non si dovrebbero vedere e non si dovrebbero sentire, e ne va delle generazioni future, perché un figlio o una figlia maleducata, maleducato, capite il senso, non il senso dispregiativo, insomma, di questo termine, cioè educato male sarà a sua volta un pessimo marito, una pessima moglie, un pessimo padre, una pessima madre. Quindi si introduce, si avvia un circolo che se non troviamo un modo, in qualche modo di fermarlo, porterà a una progressiva degenerazione ulteriore della nostra società. E quindi evidentemente anche del tessuto ecclesiale, perché la Chiesa non è che vive disincarnata, la Chiesa vive all'interno del tessuto sociale del mondo. I figli di Dio si trovano, sono composti dai figli di questa società. E l'ingresso anche nella mentalità ecclesiale di tante sciocchezze avviene attraverso il tramite della degenerazione del pensiero civile, del pensiero sociale, che poi viene preso e riportato ipso facto, dicevano i nostri padri latini, dentro i contesti ecclesiali. Ecco, questa è la prima premessa. Seconda premessa, il quarto comandamento parla di onorare il padre e la madre. Ora, cosa vuol dire onorare? Perché ci sono varie forme, diciamo così, con cui La virtù cardinale della giustizia, quindi si tratta qui di doveri verso i superiori principalmente, viene, come dire, orientata verso chi è più grande di noi. Guardate, ve ne nomino almeno quattro. Una, la più grande, è l'adorazione. La seconda è la venerazione. La terza è l'onore. La quarta ed ultima è il rispetto. Ok? Allora, l'adorazione che cos'è? L'adorazione è dovuta a Dio solo, perché l'adorazione è l'atto supremo di riconoscimento della sua assoluta santità ed eccellenza. Quindi a cui è dovuto tutto. E quindi la nostra totale umiliazione dinanzi a Lui, il riconoscere che noi siamo nulla e che Lui è il tutto, e che quindi a Lui tutto è dovuto. Gesto che si esprime, come sapete, attraverso anche dei comportamenti esterni significativi, come lo stare in ginocchio, che davanti a Dio non soltanto si può, ma si deve. Qualcuno un pochino di giorni fa mi è arrivato un post o un commento su Facebook, perché ogni tanto posto qualche articolo sulla raccomandabilità della Santa Comunione in ginocchio, mi fa: dove sta scritto nella Bibbia che dobbiamo inginocchiarci davanti a Dio? Dico, porca, dove sta scritto nella Bibbia? Filippesi capitolo 2, nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ecco, oppure prima lettura della messa di domenica scorsa: togli i sandali dai piedi perché il luogo in cui stai è una terra santa. Quindi, cioè, comunque, l'adorazione è questo gesto supremo, quindi, che è dovuto a Dio solo, neanche alla Madonna e neanche al più grande di tutti quanti i santi. D'accordo? Solo Dio si adora. Ricordiamo il Vangelo di 3 domeniche fa, quando Gesù, rispondendo a Satanasso che voleva essere adorato, diceva: Dio solo adorerai e a Lui solo renderai culto. Quindi gli atti di culto e l'atto di culto supremo, che è appunto l'offerta del sacrificio, che per noi cristiani trova il culmine nella Santa Messa, è dovuta a Dio solo. D'accordo? Questo lo sapevano anche i pagani, tant'è vero che agli falsi dei tipo Giove o tipo gli altri offrivano ritualmente dei sacrifici, appunto perché li riconoscevano come divinità. Ricordate quando il Nuovo Testamento narra che Paolo e Barnaba, mi sembra in Grecia, se non ricordo male, fece un miracolo, subito li scambiarono per Zeus e per Apollo e volevano offrirgli un sacrificio. San Paolo a fatica ha dovuto trattenere questi pagani da offrire un sacrificio a lui e a Barnaba, pensate un po', no? Ecco, questo per farvi capire come dentro il cuore dell'uomo era tanto, diciamo, radicata e questa cosa. Ai santi cosa è dovuta? Ai santi invece è dovuta la venerazione, non soltanto ai santi. La venerazione in generale è quella dovere di giustizia che viene reso alle creature moralmente meritevoli, cioè a coloro che sono più grandi di noi, non perché sono i grandi in senso assoluto come Dio, ma perché sono comunque più grandi di noi, perché sono state più virtuose di noi, sono state più brave di noi. Sono state delle creature eccellenti. Ci sono, tant'è vero, non soltanto le onorificenze ecclesiastiche, quindi quando uno diventa beato o santo, ma ci sono anche le onorificenze civili, d'accordo? Che vengono date alle persone meritevoli. Quindi quando uno diventa, non lo so, cavaliere o commendatore, è perché si è distinto. Ci sono anche le onorificenze militari. Quindi tu diventi un grande in quella determinata, come dire, aspetto della vita sociale o della vita in senso assoluto. Quindi i santi vanno venerati, d'accordo? E la Madonna, che è la prima fra tutti i santi, dice la Chiesa, viene ipervenerata, gli si presta un culto, si dice, di iperdulia. Ok? E veramente anche alcune onorificenze ecclesiastiche, se volessimo, insomma, hanno, diciamo così, qualche variante, diciamo così, umana di questa dimensione particolare della virtù cardinale della giustizia. Avrete sentito sicuramente che qualche prete, anche non vescovo, è chiamato Monsignore. Quando è che uno viene nominato Monsignore dal vescovo, speriamo che a me non mi nominino mai, però ecco, questo è quando è riconosciuto come sacerdote particolarmente bravo e particolarmente meritevole, cioè essere nominato Monsignore è un titolo onorifico, cioè tu vieni nominato Monsignore se il vescovo ti ritiene un sacerdote esemplare. Ecco, questo è esemplare nel senso morale del termine, quindi cioè una persona esemplare perché sei meritevole. Ecco. Ora, l'onore è un pochino diverso dalla venerazione, perché mentre la venerazione, come dire, è proporzionale al merito di chi è venerato e quindi alla sua virtù, l'onore prescinde dal merito, perché l'onore è dovuto semplicemente all'autorità costituita, a prescindere dalle sue qualità soggettive. Ecco la differenza. Questo è, state attenti, che è molto importante, perché io non sono chiamato a onorare mio padre e mia madre se sono santi, ma io sono tenuto, non chiamato, meglio, tenuto a onorare mio padre e mia madre perché sono mio padre e mia madre, punto. E l'onore è più che rispetto, d'accordo? Vuol dire, include in sé il rispetto, ma lo supera. Quindi, il rispetto vuol dire non offendere in nessun modo e in nessun caso mai la dignità del prossimo. L'onore implica anche un obbligo di relazionarsi in bene, di parlarne bene, di riconoscergli l'autorità e di permettergli di esercitare l'autorità che gli è dovuta, senza ribellarti. Quindi, capite che un genitore non perfetto e non assolutamente esemplare non perde il diritto all'onore da parte del figlio, così come dei governanti non perfetti, sempre ammesso che emanino leggi moralmente lecite, perché una legge moralmente illecita, poi ne parleremo in qualcuna di queste conversazioni, non è ovviamente da obbedire. Né eventuali rifiuti o ribellioni da parte dei soggetti all'autorità potrebbero giustificarsi con la vera o presunta indegnità morale dell'autorità costituita. Quindi, tornando ancora, a differenza del semplice rispetto, implica il dovere dell'ubbidienza nei limiti in cui l'autorità è esercitata in forma lecita, quindi comandando cose leciti, e dentro i propri ambiti. Poi faremo tutta una montagna di esempi nelle prossime conversazioni, eh? E comporta anche il dovere della gratitudine. Ecco perché i genitori ci hanno dato la vita, ragazzi. Questo che ci hanno dato, noi non possiamo ricambiarlo. I governanti, in teoria, anche se oggi è molta teoria e poca pratica, dovremmo essere grati perché mettono a disposizione di tutti le loro competenze e le loro capacità per servire la pubblica cosa. Ecco. Noi dobbiamo un attimo comprendere che tutti i soldi che girano oggi anche tra i nostri politici sono un'eccezione. Nella storia, specialmente nella storia romana, penso che questo lo sappiate, c'era la gratuità delle cariche pubbliche, cioè essere un senatore era un onore, per questo che poi dovevi essere onorato, cioè ripagato dall'onore stesso di essere senatore, d'accordo? E quindi capite, se tu stai lì gratis, come stavano i senatori di un tempo, semplicemente a occuparti del bene pubblico e del bene di Roma, è ovvio che hai tutto il sacrosantissimo diritto alla gratitudine di tutti coloro che sono i destinatari della tua azione, perché stai lì, come si dice, gratis et amore tei. Ora, il fondamento di questo onore si trova in quale fatto? Nel fatto che ogni autorità legittimamente costituita, troviamo nel Nuovo Testamento, in qualche modo rappresenta Dio in quanto sovrano e Signore di tutti e di ciascuno. Quindi è ovvio che non è Dio il nostro superiore, tra virgolette, ma lo rappresenta. E quindi, nei limiti in cui la sua autorità è legittima e legittimamente esercitata, risottolineo questo qui, noi dobbiamo e possiamo considerarlo come rappresentante di Dio e quindi dobbiamo onorarlo. Mentre il rispetto è dovuto non soltanto alle autorità costituite, ma a tutti gli uomini, quindi anche ai nostri pari e anche ai nostri inferiori. Perché il rispetto, che è il quarto delle gradazioni di cui vi parlavo, trova la propria giustificazione e è il proprio fondamento semplicemente nel fatto che in ogni uomo c'è l'immagine di Dio. Per ciascun essere umano il figlio di Dio si è fatto uomo, ha patito ed è morto e quindi non è mai per nessun motivo e in nessun caso e a nessun uomo lecito disprezzare nessuno, semplicemente perché per tutti e per ciascuno Dio è morto e ogni essere umano è stato figlio di un atto creativo e di amore divino, per cui nessuno può violarne la dignità intrinseca, anche questa che non dipende dalle sue qualità morali, ma che gli dipende, che gli deriva dal fatto di essere immagine e somiglianza di Dio. Quindi, per concludere, le prime due forme, l'adorazione e la venerazione, hanno come fondamento il merito e l'eccellenza dei destinatari, Dio che è sommamente eccellente e i santi, che si distinguono per virtù e per meriti, mentre le ultime due hanno come fondamento l'ordine oggettivo stabilito dall'Altissimo, il fatto che i superiori rappresentano Dio e che ogni uomo porta la sua immagine e la somiglianza, e pertanto non dipendono dalle qualità soggettive dei destinatari. Il tempo a nostra disposizione penso che sia terminato, ragazzi, riprenderemo dalla settimana prossima e continuando e cominciando un pochino ad entrare nel vivo e nel dettaglio di questo quarto comandamento. Do la mia benedizione e i miei saluti a tutti e una santa settimana. Ave Maria.